Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera continuiamo il viaggio intrapreso ieri attraverso l'Europa alla scoperta di alcune soluzioni creative, originali e di rottura ad alcuni problemi che sembrano insolubili perché ci mettono davanti a scelte contraddittorie. Ieri abbiamo parlato di spazzatura, oggi parliamo di mobilità e qui quale sia la contraddizione, insomma, direi che è immediatamente evidente. Quella tra la mobilità automobilistica e la mobilità pedonale e delle biciclette. Le due mobilità si incrociano, si intralciano a vicenda. Ma a mio modo di vedere c'è anche qualcosa di più sotto a questo tema, perché insomma questo io credo sia innegabile: ogni metro quadrato occupato da un'auto, che tra l'altro di solito sta ferma per almeno il 90% del tempo, evidentemente è un metro quadro in meno per tutti gli abitanti della città. Ma diamo subito il bentornato ad Alessandro Marata, architetto, docente universitario e consigliere del Consiglio Nazionale degli Architetti. Buonasera, bentornato Marata. Buonasera a lei. Allora, prima di parlare del primo caso di stasera, facciamo una piccola puntualizzazione. Noi parliamo di scelte, diciamo, certamente desuete, che non è che si possano replicare dappertutto, che però non si possono tutte liquidare come stranezze o sprechi. Ci sono sempre delle buone ragioni, no? Rispetto anche a delle scelte estreme come quella di cui ci parlerà adesso. Certo, assolutamente sì. Il quartiere Zuidas ad Amsterdam, ad esempio, è un po' particolare, perché se noi lo attraversiamo e attraversiamo un quartiere apparentemente normale, fatto anche di edifici molto alti, molto densi, per tornare al tema di ieri, dopo un po' noteremo una strana cosa, che non ci sono praticamente strade, anzi c'è una sola strada carrabile che lo attraversa, attorniata da tante strade ciclopedonali. Beh, le strade sono tutte sottoterra, sia quelle ferrate che quelle carrabili, attraversano il quartiere ma non si vedono a livello dei garage, delle autorimesse. Insomma, le due mobilità in questo caso sono state sfalsate verticalmente, no? Non si incrociano più perché una sta al piano sopra e l'altra sta al piano sotto. Certamente, esattamente così, come del resto, come ha detto, le idee poi sono innovative ma possono anche non essere nuove. C'è un famoso quadro di disegno di Leonardo che prevedeva già una soluzione del genere nel Rinascimento. Sì, a volte sono persino banali, certo. No, a posteriori certe idee. Ecco, una cosa del genere però forse avrà dei costi molto elevati, non è che sono assurdi i costi di una scelta di questo tipo? Non farei tanto un problema di costi, che non sono tanto elevati, dato che ormai è normale per la città andare nel sottosuolo, quantomeno per i parcheggi ci si va anche con i centri commerciali. Direi che nel caso olandese, probabilmente è una questione anche di civiltà, qualcuno potrebbe obiettare che potrebbero essere dei luoghi insicuri, ma evidentemente sono sufficientemente tutelati per renderli assolutamente agibili e credibili nella realtà. Sicuri nel caso, per esempio, di un incidente, no? Lei dice, sì, lì diventa più complicato forse intervenire. Sono dei piccoli tratti, non sono dei trafori lunghissimi. Ecco, diciamo che l'importante è non farli percepire a livello della superficie. Ecco, senta, restiamo un attimo ad Amsterdam. Qualche altro esempio, insomma, di scelte desuete? Beh, diciamo così, c'è una cosa particolare proprio nella stazione di Amsterdam, che stanno terminando la costruzione di un parcheggio multipiano, coperto, gratuito. Sì. La cosa particolare però è che non è per le automobili ma per le biciclette, vale a dire ne conterrà qualcosa come oltre 10.000. 10.000 biciclette alla stazione di Amsterdam. Su tre piani, coperte, gratuite, questo diciamo è quindi un parcheggio intermodale, se vogliamo così, uno scambio intermodale tra biciclette e treno, una cosa certo. Ma perfettamente realizzabile. Ecco, questo certamente. È molto intelligente e anche molto semplice. E c'è anche un laghetto vicino a quel quartiere di cui parlavamo prima, che viene usato invece per fare la geotermia praticamente. Esatto, no? Le buone idee non vengono mai da sole, per cui a fianco di queste strade interrate è stato fatto un laghetto artificiale che ovviamente dà una grande qualità urbana all'interno del parco, per il gioco dei bimbi, per la qualità generale dello spazio, ma viene tecnologicamente utilizzato per il raffrescamento estivo, quindi è l'unione tra qualcosa di bello e di utile. Tra l'altro spesso questi laghetti artificiali raccolgono anche l'acqua piovana, quindi insomma... Raccolgo l'acqua piovana e a volte vengono usati anche in ambito urbano per la fitodepurazione, non è questo il caso, ma diventa compatibile persino con la depurazione delle acque reflue. Ecco, senta, invece come sono le strade d'Amburgo? Beh, D'Amburgo è una delle città verdi per eccellenza, verdi nel senso di aree verdi, non green. E, si dice che ad D'Amburgo tutte le strade, ad esempio, sono alberate, sì. Perché è vero che le alberature servono, ad esempio, per mitigare il rumore, le polveri, ovviamente. Anche il riscaldamento estivo, anche se magari ad D'Amburgo non è un gran problema, ma dalle nostre parti sì. Sì, per il surriscaldamento delle pavimentazioni, sicuramente. Ma diciamo, queste sono tutte cose tecniche. In realtà, la cosa bella di questa indicazione che la pubblica amministrazione ha dato ai progettisti e a chi deve sviluppare le parti di città è stata molto più semplice e poetica, perché l'indicazione è semplicemente: le strade vanno alberate, perché una strada non alberata non è una strada come si deve, incompleta, al di là dell'utilità sarebbe comunque una cosa sbagliata. È come dire, facciamo una strada e non l'asfaltiamo, no? È ovvio che vanno asfaltate le strade, lì è ovvio che bisogna mettere gli alberi. È ovvio che vanno messi gli alberi. E poi è ovvio che bisogna girare anche con un po' di cautela, mi pare di capire. Certo, sempre ad D'Amburgo. Sempre ad D'Amburgo, il problema del traffico non è solo un problema di inquinamento, ma in ambito urbano è molto un problema anche di sicurezza, e lì l'hanno risolto in questa maniera. Quasi il 90% dei residenti dei quartieri di Amburgo hanno le strade con un limite massimo di velocità di 30 km. Allora non vuol dire che ad Amburgo l'attraversare la città sia lento, hanno degli assi ad alto scorrimento sicuri, ma dove ci sono le case la rete secondaria è a bassa velocità. Quindi è un modo per rendere intelligentemente compatibile il traffico veicolare con la residenza e anche le zone di cultura. Beh, allora Marata, senta, quando avrà altri esempi di questo genere si faccia vivo e ne parliamo ancora. Molto gentile, molto volentieri, dottore. Bene, anche per questa settimana è tutto, appuntamento a lunedì, parleremo di effetto Liuk, di combustibili di prima generazione. Buon fine settimana ancora a tutti da Maurizio Melis.